Sara, prima di tutto è il tuo nome e cosa fai? Io sono Monica della Cascina Pesciolo, mio marito è il produttore di vino e io cerco di aiutarlo così per quel che posso nell'azienda. La Cascina Pesciolo oggi è qua a Critical Wine, perché? Allora, abbiamo iniziato il Critical Wine a Milano a dicembre del 2003, giusto? E niente, poi li abbiamo seguiti nelle altre iniziative e oggi siamo qui appunto per continuare un po' un discorso iniziato a Milano e portarlo avanti. Cosa vuol dire produrre vino in questo modo e cosa vuol dire appunto avere un rispetto per il territorio, non solo dal punto di vista di produzione, quindi all'attenzione a certe regole, a certi modi proprio di lavorare, ma anche dal punto di vista etico, cosa vuol dire lavorare in un certo modo? Allora, innanzitutto così mi piacerebbe specificare cosa vuol dire lavorare in alta langa e sui terrazzamenti, perché io penso che il lavoro che c'è dietro una cultura terrazzamenti è molto difficile, una lavorazione tutta manuale, le attrezzature, diciamo i trattorini per passare tra un filare e l'altro non ci sono, quindi è faticosa la lavorazione. Di conseguenza questa lavorazione necessita di una passione molto forte che fortunatamente Marco, che è appunto il produttore, ha e la coltiva anche perché così gli dispiace vedere quelli che sono un po' i territori suoi nativi lasciati perdere. E possiamo dire anche che questo modo, questa voglia, no, di trovare dei modi di produzione anche più vicini che rispettino sia l'ambiente ma anche l'uomo, possa essere una via di contrapposizione alla diffusione dei centri commerciali, alla mercificazione dei prodotti, alla sempre più scarsa qualità anche dei prodotti che si trovano. Sì, infatti è proprio un valorizzare il territorio e capire i prodotti che possono nascere da questo territorio, mettendo proprio in contrapposizione il nostro prodotto che comunque è un prodotto naturale, un prodotto sano rispetto a quelli dei centri commerciali che non hanno, diciamo, non puntano alla qualità, non danno peso a quello che, diciamo, un po' alla poesia che potrebbe nascere da un prodotto. Ti ringrazio. A voi, ciao.